Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Noi partiamo da un'agenzia appena battuta. La lettera inviata da Atene all'ESM contiene la richiesta di un prestito triennale per onorare le scadenze obbligazionarie e garantire la stabilità del sistema finanziario ellenico. Lo scrive poco fa Bloomberg, che ha visionato il documento, nel quale però non verrebbe specificata alcuna cifra. E ora rimaniamo sui soldi, e i soldi di cui ha parlato naturalmente Alexis Tsipras questa mattina, anche se ha parlato soprattutto di orgoglio della Grecia, ha parlato del ruolo dell'Europa e di fatto ha accusato l'Unione Europea di aver dato soldi soprattutto per salvare le banche e non il popolo. Allora sentiamo il punto che la nostra Livia Zancaner ha realizzato sull'intervento di Tsipras. Applausi e cartelloni con la scritta OK in greco per ricordare la vittoria del no al referendum, ma anche parole dure e toni sprezzanti. Così è stato accolto a Strasburgo Alexis Tsipras, che dopo l'ultima dell'Europa si presenta al Parlamento europeo. Subito il presidente del Consiglio Tusk gli ricorda che Atene ha solo 4 giorni per l'accordo. Non ho dubbi sul fatto che una possibile Grexit colpirà anche l'Europa, dice Tusk, quindi l'intervento del premier greco. Finora i soldi dati alla Grecia sono stati utilizzati per salvare le banche europee e greche. La mia patria è stata usata come una cavia dell'austerity. Ora vogliamo un accordo che ci porti fuori dalla crisi, dichiara Tsipras, pronto, così sembra, a mandare il nuovo piano che contiene proposte affidabili, spiega il leader ellenico. Primo obiettivo la lotta alla disoccupazione, ma anche un impegno immediato sulla sostenibilità del debito. Non si fa attendere l'affondo di Weber. Con il referendum lei ha distrutto la fiducia in Europa, dice a Tsipras. L'applaudono solo gli estremisti, lo incalza ancora il leader del PPE, e a prendere la parola sono proprio gli euroscettici. È stato coraggioso in dire il referendum, ora porta il suo popolo fuori dall'euro a testa alta. Le parole del leader dell'UKIP, Farage. Quello che sta distruggendo l'Europa è l'arroganza tedesca, non è la Grecia, spiega il numero uno di Podemos, Pablo Iglesias. Senza la Grecia nella zona euro, l'Europa non sarebbe più se stessa. Questa è la posizione dei socialisti tramite il loro capogruppo Gianni Pittella. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Naturalmente gli aggiornamenti non appena appunto ci saranno sviluppi su questa nuova richiesta e sulla posizione che avete sentito espressa chiaramente da Tsipras. Cambiamo argomento. Nel corso di un dibattito organizzato da Euronet Plus al Parlamento Europeo abbiamo intervistato e parlato con il commissario Oettinger. Oettinger è il commissario europeo all'agenda all'economia e all'agenda digitale. Le abbiamo chiesto di esprimersi sulle preoccupazioni di chi teme, come l'europarlamentare austriaco Michael Rinon, che la tutela della neutralità della rete sia uccisa sull'altare di grandi interessi economici. La questione in sostanza è: la rete è aperta in maniera uguale per tutti, oppure c'è qualcuno che è più uguale degli altri e dunque deve essere tutelato maggiormente? Sentiamo cosa ci ha detto Oettinger. Let me say, net neutrality is important. La neutralità della rete, dice Oettinger, è importante e non verrà in nessun modo uccisa. Se qualcuno provasse a farlo, non otterrebbe mai una maggioranza né in Parlamento né in Consiglio. I membri del Parlamento stanno analizzando tutte le implicazioni delle diverse scelte possibili. Ci sono punti che convincono, altri meno. Sono certo che avremo una maggioranza equilibrata tra i diversi interessi e non è vero che ci stiamo preoccupando delle esigenze di mercato della grossa industria, in particolare della automobile. È nel nostro interesse di cittadini e non tanto in quello dell'industria dell'automobile che i nostri veicoli siano più sicuri. Noi, prosegue il commissario europeo, abbiamo proposto uno standard comune, una base tecnologica di riferimento per tutti che esclude qualsiasi forma di discriminazione. Soprattutto questo vogliamo però che, dove si riscontra un interesse pubblico, ci sia la possibilità di creare un'area in cui un gruppo selezionato di gestori possa contare su velocità più alte e protette. Questa possibilità, conclude Oettinger, serve a sfruttare le nuove tecnologie. In alcuni ambiti serve qualità maggiore e velocità maggiore e dice, penso senz'altro all'industria automobilistica, ma anche e soprattutto alla sanità e a quello dei servizi d'emergenza. Naturalmente dunque conferma questa linea da parte dell'Europa, che è un po' in opposizione a quella americana, cioè questa linea del doppio binario. Il dibattito continua, vi ricordo che la decisione definitiva su questo documento non dovrebbe comunque arrivare prima del mese di settembre. E quando sono le 14:06 minuti è tutto per Europa 24, un saluto da Gigi Donelli. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.